Tirsi e Amaranto da Favole di Jean de La Fontaine tradotto da Emilio De Marchi registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi agosto 2007 Roma alla signorina de Sillery se il boccaccio mi tolse un giorno al dolce a Esopo mio novella ecco mi toglie ad entrambi una musa assai gentile che alla fonte natia mi riconduce come dire di no quando divina è la musa e di tal beltà vestita che sui cuori sovrana alza lo scettro or sappia il mondo che a cantar mi tragge ancor messer lupo e monna volpe l'unica Sillery vaga donzella a cui tutti si prostrano devoti chi dice Sillery nulla gli resta da aggiungere e poi che non sia vano essa si duol che a lei sfugga il segreto spirito dei miei racconti a dolce sguardo è ben che ignudo il ver non apparisca onde ancor canterò ma sol per essa ciò che davanti a lei senza commento possa tornar più volte senza offesa vengano prima i miei pastori e poi ben io saprò sulla modesta lira di capri e lupi concertar le voci tirsi diceva ad amaranto un giorno conosco un mal mia cara un mal sì dolce che vince ogni altro ben sopra la terra ne suoi misteriosi incanti or vieni se di tirsi non hai dubbio e paura e lascia che conoscere ti faccia questo mal questo bene e non son io il più fedele e più sincero amico di quanti hanno per te malato il cuore disse amaranto e qual nome gli fanno a questo mal che dici amor amore è un bel nome davver e a quali segni presentirlo potrei qual è il tormento son pene al cui confronto anche i più grandi passatempi dei re stupidi giochi diventan tu vaneggi in una blanda estasi in mezzo ai boschi il ruscelletto luccica sempre in una vaga immagine tremolante che a te non rassomiglia e t'insegue ovunque tu fugga per ogni cosa è cieca la pupilla fuor di quella parvenza il nome d'un pastorel la voce sua l'idea d'una fiamma improvvisa il volto accende sospiri se di lui pensi e non sai perché sospiri ma per lui sospiri incontrarlo vorresti e non lo temi e questo mal allora disse amaranto o mio buon tirsi è un pezzo ch'io lo provo tirsi sperò d'esser giunto in porto e corse a lei che subito soggiunse io lo conosco è il mal che sento in core per clidamante ahi disgraziato tirsi che di vergogna non moristi e d'ira molti son come lui semplici e stolti che giocando alla sorte ahi troppo tardi s'avvedono di fare il gioco altrui fine della favola Tirsi e Amaranto questa registrazione è di dominio pubblico.